Gentilissimi, buonasera a tutti, benvenuti, siete veramente tanti, ci state abituando ad avere un pubblico molto attento, molto vicino. Ero presente anche alla proiezione del film e quindi ho già visto moltissime presenze anche alle 5, alle 6, alle 7, quindi siete ben disposti a venire incontro a queste conferenze organizzate dal filosofo al cinema, che ci sta abituando a serate molto intense, sia per la scelta dei film, scusate se vado troppo vicino, che per questi incontri filosofici che di grande richiamo, perché abbiamo professori di grande qualità. Sì, voi mi state guardando perché alla mia destra di fatto non c'è il professor Ennio Borgna, il quale ci ha avvisato 2 ore fa di fatto che è a casa con l'influenza. Aveva fatto di tutto per poter venire, però poi non è riuscito a causa della febbre. Però la sua gentilezza ampissima è stata quella di inviarci via mail la relazione che avrebbe tenuto questa sera. Quindi Nicola Gobbi a fianco a me avrà il compito di leggere la relazione del professor Borgna. Prima di dare la voce ai filosofi, desidero ringraziare il Centro Giovanile Antonianum, la Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate, l'Ufficio Pastorale della Comunicazione della Diocesi di Padova e Filosofia di Vita per aver messo insieme le energie che danno la possibilità di realizzare questi incontri. Poi desidero ringraziare proprio il filosofo al cinema nella persona di Umberto Curi, poi Guido Bertagna, Nicola Gobbi e Arianna Prevedello che hanno messo in essere ogni parte di questi incontri. Mi hanno detto anche di ringraziare gli sponsor, coloro che sono vicini con un contributo, che è il Comune di Padova, l'Assessorato alla Cultura e Turismo, Padova Nursery of Arts, Y-40, l'APS e il Bacaro Padovano, che è un bacaro, quindi si beve e si mangia al suo interno. Allora, in questa sera noi abbiamo un tema molto interessante da trattare, che è felicità e psiche. Nel pieghevole che avrete sicuramente con voi, hanno proprio collocato una frase di Adorno che dal mio punto di vista dice bene: la felicità è come la verità, non la si ha, ci si è. L'unico rapporto tra coscienza e felicità è la gratitudine. Questa è una frase molto completa che attiene molto bene al tema che stasera andremo a sviluppare. Io anche ho avuto modo di riflettere su queste due parole e naturalmente era nella mia intenzione scrivere, poi ho trovato che l'ottava elegia duinese di Rilke traccia molto bene la linea di che cos'è la felicità. Io diciamo riassumo leggendovene solo alcune parti perché poi la serata la passerò ai relatori, ma la creatura, qualsiano gli occhi suoi, vede l'aperto. Soltanto gli occhi nostri sono come rigirati, posti tutti intorno ad essa, trappole ad accerchiare la sua libera uscita. Quello che c'è di fuori lo sappiamo soltanto dal viso animale, perché noi, un tenero bambino, già lo si volge, lo si costringe a guardare indietro e vedere figurazioni soltanto e non l'aperto che si profondo nel volto delle bestie, libero da morte. Questa la vediamo noi soli. Il libero animale ha sempre il suo tramonto dietro a sé e dinanzi a Iddio e va in eterno come vanno le fonti. Noi non abbiamo mai dinanzi a noi, neanche per un giorno, lo spazio puro dove sbocciano i fiori a non finire. C'è sempre mondo e mai quel non so dove senza negazioni, puro, non sorvegliato, che si respira e si sa infinito e non si brama. diciamo, questa parte la sento anche molto vicino al film che abbiamo visto scorrere prima, che era qui con noi, di cui il professor Umberto Curi ha riassunto in 4 punti fondamentali. Ora, nello svolgere della serata, riprenderemo questo tema, quindi per dare avvio al... inizieremo, se è d'accordo, dalla relazione del professore Eugenio Bornia e poi lasceremo quindi uno spazio forse più ampio a seguire a lei. Prego, Nicola Gobbi. Oltre al saluto di Eugenio Bornia, do lettura del testo che ha inviato per questa serata, intitolato Felicità e Psiche. Non è mai facile ritrovare le parole che ci consentano di dare voce alle emozioni e di analizzarle e descriverle adeguatamente, senza razionalizzarle e reificarle. Ancora più difficile è dare parole a una delle esperienze emozionali più importanti e più inafferrabili nella sua essenza, come è la felicità. Vorrei iniziare il mio cammino stasera citando quello che di essa ha scritto nell'arte della vita Bauman, con parole semplici e chiare. È possibile fare sulla felicità affermazioni certe ed esenti da obiezioni? Eccone una. La felicità è una buona cosa, desiderabile e da tenere in gran conto. E un'altra. È meglio essere felici che infelici. Ma questi due pleonasmi sono più o meno tutto ciò che si può dire della felicità in modo sicuro e con fondamento. Ogni altra affermazione contenente il termine felicità susciterà sicuramente controversie. Vista da un osservatore esterno, la felicità di qualcuno può essere molto difficile da distinguere da ciò che fa orrore ad un altro. Così dice ancora il grande filosofo polacco. Persino Immanuel Kant, che per tutta la vita si è dedicato, con grandi risultati, a precisare e chiarire concetti nebulosi od opinabili, per arrivare così a una definizione che sistemasse la questione in modo esente da qualsiasi controobiezione e dunque accettabile, e in ultima analisi accettato da chiunque, nel caso del concetto di felicità, si è sentito costretto ad abbandonare tale speranza. Cosa è possibile allora dire di una esperienza emozionale così nomade e così sfuggente ad ogni definizione tematica come è questa della felicità? Cosa ci consente di distinguere una vita felice da una vita infelice? Una vita che si apra al futuro da una vita che si chiuda al futuro? Quali modelli di vita, quali speranze, quali sogni, quali illusioni scandiscono una condizione umana che possa dirsi felice o infelice? Gli orizzonti di senso della felicità, della ricerca della felicità, non possono se non essere tematizzati. Questo è il pensiero di Bauman, dal desiderio di benessere, del proprio benessere e del benessere altrui, considerati nella loro complementarietà e nella loro interscambiabilità. E ciascuno di noi è continuamente chiamato ad una scelta fra l'una e l'altra modalità di ricerca della felicità, quella indirizzata alla sola nostra soggettività e quella contestualmente indirizzata alla nostra e a quella degli altri. La felicità è insomma intesa da Bauman come esperienza relazionale, come ricerca di qualcosa che dia un senso alla nostra vita e a quella degli altri, e che sia definibile come benessere, come benessere psichico e come benessere fisico. Ne viene così ribadita la fondazione etica della felicità, della ricerca della felicità. E almeno in questo non potrei non concordare con questa definizione. E questa è l'area tematica della psichiatria. Quali sono i contenuti emozionali della felicità? E cioè, cosa proviamo nella nostra interiorità quando essa nasca in noi? La definizione di Bauman coglie un aspetto del problema, ma non lo esaurisce. E dalle falde profonde della nostra interiorità rinascono le esigenze di felicità ancora più profonde di quella orientata alla sola ricerca del benessere. Sono felicità che vivono in noi come comete luminose e indelebili nelle loro scie. Sono felicità che si riflettono nella liberazione da ogni dolore e da ogni sofferenza, da ogni nostalgia e da ogni preoccupazione, e talora da ogni terrestrità. Sono felicità che si nutrono di solitudine interiore, di solitudine creatrice, e che ci fanno gioire delle felicità, delle esperienze felici degli altri. Sono felicità che sconfinano talora in esperienze mistiche e che ci offrono in ogni caso orizzonti di radicale appagamento esistenziale. Queste felicità, quelle che nascano dalle sorgenti immemoriali del cuore, non si riconoscono fino in fondo nella arida forma di una ricerca del benessere. Così è necessario rendere sempre più visibili e concrete le differenze fra la grande felicità, la felicità che dia un senso alla vita, e la piccola felicità, la felicità che si illude di ritrovare il significato della vita in esperienze labili e fuggitive, friabili e inconsistenti, fluttuanti e vaganti. La grande felicità, la felicità come esperienza interiore, non può non avere a che fare con la speranza, che è memoria del futuro, e che come la grande felicità, dal passato senza tregua, sconfina nel futuro. Certo, la felicità interiore, come la solitudine e come la speranza, ci porta al di fuori dei confini del nostro io e ci immerge nelle radure inesauribili della intersoggettività delle relazioni con gli altri. E nella solitudine dell'anima, e forse solo qui, ci è possibile intravedere nelle chiare giornate di luce interiore cosa davvero sia questa emozione, abbagliante e crepuscolare, oscura e indicibile, che chiamiamo felicità. Oggi si rivive come felice, come sola felice, una vita contrassegnata dalla ricerca e dalla soddisfazione di oggetti come sono il piacere e i beni materiali. Quante piccole felicità, quante felicità superficiali e liquide che poi si sciolgono e si dissolvono come rugiada. Si va alla ricerca disperata di situazioni e di cose, di relazioni precarie ed effimere, che l'opinione pubblica contemporanea considera come portatrici di stati d'animo felici. E di quante forme futili di felicità, fragili come vetro, si va alla ricerca con passione talora fanatica e sempre in ogni caso implacabile. E ogni occasione, ogni circostanza che si inserisca negli attuali orizzonti di senso della felicità è desiderata ed è ricercata. Le disillusioni conseguenti al franare dei motivi che hanno fatto felici sono molto dolorose e il vuoto che esse lasciano non è facilmente sanabile. Le felicità, che si nutrano di desideri fondati in relazioni interpersonali e in ideali umani significativi, sono felicità che non si lacerano mai. Anche se perdute o smarrite, sopravvivono come stelle luminose nella memoria. Gli orizzonti di senso della felicità cambiano a mano che si avanza nel tempo. Sono di grande importanza le cose che ha scritto Schopenhauer. Citazione. Se quindi il carattere della prima età della vita consiste in un'ansia insoddisfatta di felicità, quello della seconda metà si riduce per contro alla preoccupazione dell'infelicità. In questa fase della vita, infatti, si è acquistata, più o meno chiaramente, la conoscenza che ogni felicità è chimerica, che il dolore invece è reale. In tal caso, perlomeno nei caratteri più assennati, si aspira alla semplice assenza di dolore e a uno stato privo di turbamenti, piuttosto che non al piacere. Fine della citazione. Insomma, solo nella prima adolescenza si è felici, mentre nell'età giovanile si va alla disperata ricerca della felicità, senza che si riesca mai a raggiungerla, e con la straziata consapevolezza che nulla si possa intravedere della felicità immaginata e sognata. Nell'età adulta ci si rassegna alla impossibilità di essere felici e solo ci si preoccupa di sfuggire al dolore. Vorrei ora chiedermi se, e in quale misura, la felicità patologica, quella che nasca da una esperienza psicotica, che la psichiatria chiama maniacale, abbia una qualche correlazione tematica con la felicità che ho cercato di delineare nelle fondazioni fenomenologiche. Ovviamente, il conflitto delle interpretazioni è lacerante, ma non è davvero possibile considerare come destituita di senso ogni esperienza patologica contrassegnata da emozioni, almeno apparentemente simili alle esperienze di felicità. Nella follia sorella sfortunata della poesia, come la definiva a suo tempo Clemens Brentano, il grande poeta romantico tedesco, la vita continua a suo modo a tessere la sua tela di emozioni e di significati. E in particolare, non si può non guardare con angoscia e con stupore alle esperienze di felicità patologica che, vertiginose e inenarrabili nelle loro risonanze umane, si manifestano in alcuni testi, nella Ripresa, ad esempio, di Kierkegaard. Citazione diretta. La mia andatura era lieve, non come il volo degli uccelli che tagliano l'aria e abbandonano la terra, ma come l'ondeggiare del vento tra le messi, come il dolce tremolio del mare e il sognante navigare delle nuvole. Il mio essere era la trasparenza degli abissi marini, della tacita e remota felicità della notte, dell'eco solinga che parla nel silenzio del meriggio. Ogni sentimento trovava il suo appagamento e il suo riposo con melodica risonanza nella mia anima. Ogni pensiero mi si affacciava alla mente trasfigurato dalla luce solenne della felicità. L'idea più fugace e più strana, come il pensiero più ricco e più profondo. Fine della citazione. Dagli inimmaginabili cieli stellati di queste esperienze, agli abissi senza fondo della disperazione, della felicità negata e frantumata, della felicità impossibile. Ancora un'altra citazione. Come ho detto, a luna precisa toccai la cima più alta di questa felicità e già presentivo una felicità ancora più alta, quando cominciò a pizzicarmi un occhio, forse un ciglio, un peluzzo, un grano di polvere, non so. Certo è che in quel medesimo istante precipitai di colpo negli abissi della disperazione. E può capirmi chiunque sappia che cosa vuol dire essere stati a quell'altezza ed essersi posti come questione di principio il problema della contentezza assoluta e della sua raggiungibilità. Fine della citazione. Una straordinaria fenomenologia della felicità, anche se di una felicità ferita, questa che nasce dalla malattia, alleata alla genialità, e che viene poi divorata dal dilagare della disperazione, della inaudita infelicità. Sono esperienze vissute che non si possono leggere se non con timore e tremore del desiderio di felicità, si nasconda anche nelle forme di vita psicotica. La felicità patologica, quella ora descritta, non si identifica nella felicità artificiale conseguente alla somministrazione di sostanze stupefacenti, di droghe, dalla mescalina alla marijuana, dalla morfina all'eroina, dalla cocaina alle ultime sofisticate sostanze stupefacenti. La felicità, le apparenze della felicità nelle condizioni di tossicomania, non sono confrontabili nemmeno con quelle che si hanno nelle esperienze psicotiche. Sono condizioni estatiche che si accompagnano a disturbi della coscienza e danno luogo così ad esistenze frantumate sia nella loro vita emozionale sia in quella cognitiva. Nel riassumere le linee tematiche di queste mie nomadi considerazioni, vorrei dire che la esperienza della felicità non è lontana da quella della gioia, della letizia, della serenità e della speranza, che ne sono, vorrei dire, emozioni sorelle. Ma vorrei dire soprattutto che sono diversi i modi di rivivere la felicità. Ci si può appagare delle piccole felicità, labili e discontinue, friabili e inconsistenti, ostinate e crudeli, ma ci si può nutrire di grandi felicità, quelle che ci riempiono di orizzonti di senso radicati in una continua apertura emozionale a sé e agli altri, quelle che ci fanno felici della felicità degli altri. Sono le felicità dalle quali rinasce, luminoso, il senso della vita come partecipazione al destino di gioia e di speranza degli altri da noi. Certo, la solitudine ci consente di andare alla ricerca, ritrovandole, le ragioni profonde della felicità che si nascondono nella vita di ciascuno di noi, nutrendoci delle loro esigenze di alterità e di trascendenza. Scendendo negli abissi della nostra solitudine interiore, ci è possibile insomma distinguere le felicità che sfidano il corso del tempo, appagandoci, da quelle che, disfacendosi rapidamente, non fanno sgorgare in noi se non risonanze labili e fuggitive. Non so se questo mio cammino lungo i sentieri della felicità e della infelicità che le si accompagna, quando l'angoscia e la tristezza, il dolore dell'anima e il dolore del corpo scendano in noi, possa essere di qualche esile aiuto nella interpretazione di una esperienza emozionale di questa radicale significazione psicologica e umana, come sono felicità e infelicità. In ogni caso è stato un cammino che non avrei potuto fare se non mi fossi incontrato in vita con i modi di essere della sofferenza psichica. Con le ombre della infelicità, certo, ma anche, e talora soprattutto, con la grazia e con la felicità di un sorriso che si accompagna al momento in cui una depressione guarisca. Un'altra immagine della felicità, ma come diceva Leopardi, un sorriso aggiunge un filo alla tela brevissima della vita. E forse il mio cammino sulla felicità avrebbe potuto iniziare da qui. Grazie infinite, Eugenio Borgna. dagli spazi presentati da Eugenio Baornia, che vanno da un'altezza ad un abisso, questi che lui incontra essendo primario di psichiatria e il quale ho avuto modo di incontrarlo più volte, ha una raffinatezza intellettuale e di contattare quella che lui chiama la sorella sfortunata della poesia, la follia. Ci spiace veramente che questa sera non sia qui, perché anche la sua presenza come persona è comunicazione, è vicinanza, è contatto. Allora passiamo ora la parola e chiediamo a lei se uno spazio verticale che abbiamo frequentato ora, cioè uno spazio orizzontale dove può scorrere la vita, incontrare la felicità, cioè un tempo che ci permette di incontrare la felicità. Prego la sua relazione, il professor Adriano Fabris, che insegna etica della comunicazione all'Università di Pisa. Prego. Sì, grazie. Anzitutto io vorrei che procedessimo su questo terreno scivoloso che è dato da questa parola, niente più che una indicazione, la parola felicità. Vorrei che procedessimo con cautela, con la dovuta necessaria cautela, perché sono parole appunto ambigue, equivoche, difficili, traditrici di quella che è la nostra esperienza vitale. La nostra vita, beh certo, chi non è stato, non è, non può essere, non sarà felice, ma anche infelice. La domanda è, ma sappiamo davvero che cosa vuol dire? Sappiamo davvero che cosa ci aiuta a esserlo sempre di più? O a evitare quell'infelicità che ci capita, che è in buona parte il nostro destino? Cautela, dicevo. Due cautele, anzitutto, proprio per cercare di rispondere in maniera adeguata a quello che viene dalla nostra vita. La filosofia serve a questo, a trovare le parole giuste per dire quello che noi viviamo, quello che noi sperimentiamo. Tutto il resto è accademia, ce n'è tanta. Due cautele ancora. La prima cautela, abbiamo ascoltato le parole intense, belle, di Eugenio Baornia, che parlavano della felicità come di una emozione. Cosa di più semplice? Sì, la felicità è qualcosa che ci muove, che ci sopravviene da altro, che ci coinvolge, che ci travolge, che ci fa urlare di gioia, ma anche piangere, appunto, di felicità. Emozione, lo dice la parola stessa, qualcosa che ci muove e ci commuove. Ma ci basta? Interroghiamo la nostra vita, interroghiamo la nostra esperienza. Ci basta questa idea di felicità come qualcosa che semplicemente ci muove, arriva, ci travolge e va via? O non vogliamo invece che la felicità diventi qualcosa di consistente, di permanente, uno stato e non un moto, uno stato d'animo e non una emozione? Ecco, vorrei riflettere appunto su questo, su come noi possiamo anche favorire la presenza di questo stato d'animo, non semplicemente abbandonandoci ad un'emozione che magari ci viene indotta da altro. Perché ecco la seconda cautela. Noi crediamo di sapere già che cosa vuol dire felicità. Perché? Perché, anche in questo mi ricollego a quanto diceva prima Baornia, ci vengono proposte molte ricette, fin troppe ricette, che ci dicono che cosa fare per essere felici, giocando molto spesso sul fraintendimento, presupponendo una determinata idea, appunto, di felicità. Qual è l'idea più diffusa che ci permette di comprendere che cosa significa questo termine? Molto semplicemente, felicità significa appagamento. E l'appagamento oggi è quello dato dal godimento di qualcosa. E godimento significa pieno soddisfacimento di quello che io posso desiderare. Vedete? Felicità, soddisfacimento, godimento, desiderio e tutto quello che serve per raggiungere questo soddisfacimento ha valore solo in questa prospettiva, vale a dire questo io lo posso fare nella via del raggiungimento di questo pieno soddisfacimento, dell'appagamento di questo desiderio. Insomma, qualcosa è buono, vero, utile solo perché mi permette di raggiungere questo soddisfacimento del mio desiderio. Già qui, non sto parlando di cose strane, accendiamo la televisione e vediamo una qualsiasi campagna pubblicitaria. La pubblicità ci promette esattamente questo, induce in noi determinati desideri e ci promette che tutti questi desideri saranno soddisfatti e per questo saremo appagati, saremo felici, mangiando quel determinato prodotto piuttosto che vestendo in quel determinato modo. Nessun problema, è così la nostra vita oggi, ma in questo modo ci sono almeno due piccoli problemi che potremmo anche lasciar perdere, ma che alla fine in realtà finiamo per pagare nelle loro conseguenze. Il primo, c'è un errore di fondo. Il desiderio, cosa vuol dire desiderio? Qui il desiderio è scambiato con il bisogno. Il bisogno è qualcosa che si può appagare, il desiderio è quello che ci spinge sempre in là, sempre oltre, sempre al di là di noi stessi. E ci rende felici il cammino del desiderio, non perché viene appagato in qualche modo, ma perché proprio ci mette sulla via di un effettivo miglioramento, perfezionamento, ulteriore nostra realizzazione. Da questo punto di vista la felicità non è qualcosa che noi riusciamo a possedere. Felicità è qualcosa che sta proprio nel momento in cui l'appagamento viene differito, perché solo così noi siamo noi stessi. Anche perché, poi pensiamoci bene, quante volte capita che nel momento in cui noi afferriamo qualcosa e diciamo «ecco, ti ho preso», fermati attimo, sei così bello, come diceva il Faust di Goethe. Proprio in questo momento ci accorgiamo di aver stretto soltanto il vuoto. La felicità è sfuggita. Una volta che riteniamo di averla in nostro possesso, di averla nel nostro controllo, che non sfugge più, che non c'è qualcosa di ulteriore, quella speranza di cui parlava anche Borgna. Quando noi riteniamo che la felicità sia qualcosa che è in nostro controllo e che può appagarci pienamente secondo il nostro bisogno, non secondo il nostro desiderio, secondo il nostro bisogno, la felicità non c'è più, è già sfuggita. È una situazione paradossale che troviamo in tanti casi della nostra vita, in tanti fenomeni, la vendetta ad esempio. Io inseguo una vendetta e poi consumo questa vendetta e mi ritrovo completamente svuotato. Non ha più senso tutto quello che faccio, appunto perché quando sembra che abbia raggiunto il risultato di tutte le mie, i miei sforzi, quando l'ho raggiunto si è annullato, è sparito. Con la felicità accade in molti casi lo stesso, perché la felicità si ricollega al desiderio, non al bisogno. E il desiderio, come dice un filosofo francese del Novecento, Emmanuel Levinas, il desiderio di per sé è desiderio infinito dell'infinito. È seguire la strada, non fermarsi. È vita, non fissazione e possesso. Quel possesso effimero magari che io posso ottenere comprando qualcosa. Ma c'è un altro piccolo errore che noi facciamo. Se intendiamo felicità come appagamento di un bisogno, non solo, ripeto, confonderemo il desiderio con il bisogno, ma soprattutto nel momento in cui noi ci appaghiamo possedendo qualche cosa, che cosa accade? Accade che questo qualche cosa lo facciamo nostro. lo prendiamo perché siamo, lo godiamo perché appunto lo assorbiamo, lo assimiliamo, lo riduciamo a quello che è il nostro orizzonte, lo ingurgitiamo, lo assimiliamo, lo consumiamo. Non dico certo la novità, sottolineando il fatto che noi viviamo nella società dei consumi. Ma cosa vuol dire consumare? Vuol dire esattamente annullare, annientare, esattamente ciò che ci deve rendere felici. Uccidiamo esattamente la fonte della nostra felicità. Intelligente, no? Ma non è questo, di nuovo, quella prospettiva, quel punto di vista illusorio verso cui quella via del desiderio, quel cammino di addomesticamento dei nostri desideri nel bisogno che è veicolata, espressa dalla comunicazione pubblicitaria e dalla società dei consumi, intende prometterci e intende mettere in opera proprio promettendoci la felicità. E allora, perché sono apparito qua? Non per fare polemica a buon mercato, ma figuriamoci, avrei sfondato porte aperte sicuramente con voi, ma per farvi capire che, come sempre, quando noi ci concediamo il lusso, come facciamo questa sera, di prenderci una serata di pausa, una serata di riflessione, cioè facciamo filosofia, riflettiamo, la cosa che facciamo è fare i conti con quella che è la mentalità comune, fare i conti con quelle che sono le idee più diffuse e cercare di riflettere su quelle parole chiave che dicono esperienze fondamentali della nostra vita, come appunto la parola felicità. Ma per attingere il senso di questa nostra esperienza dobbiamo per forza prendere le distanze con ciò che ci viene proposto, dato quasi per scontato nella mentalità comune. Dobbiamo mettere sotto giudizio, krinein dicono i greci, criticare la mentalità comune, proprio per trovare la nostra salvezza. E dobbiamo poi parlare di esseri umani, di noi in carne ed ossa. Dobbiamo parlare della situazione in cui noi ci troviamo oggi. Ma lo chiedo a voi, lo chiedo a ciascuno di voi, in questa vita che noi facciamo, in cui ci è garantito molto, in cui ci è garantito salute, prolungamento della vita ben oltre quella che era l'esperienza e la condizione dei nostri genitori, dei nostri antenati, in cui ci è garantito un benessere. Ecco un'altra parola che abbiamo sentito da Bauman. Il benessere c'è, ma siamo felici? Lo chiedo a voi, lo chiedo ad ognuno di voi. Siamo felici in questa circostanza, in questa situazione? È una domanda un po' retorica, perché in realtà, riflettiamo un attimo, se fossimo davvero felici non parleremmo tanto di felicità, ne fruiremmo, non ne godremmo, ne fruiremmo pienamente. E infatti, e invece il fatto di incontrarci qua, a seguire un corso proprio di una serie di incontri su questo tema, beh, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Che cos'è che non funziona? Viviamo in uno spazio, in un tempo in cui forse, questo spazio e questo tempo non sono fatti per aiutarci ad essere felici. Allora forse, se vogliamo capire cosa vuol dire essere felici per noi e come poter essere felici, la filosofia aiuta anche a chiarirci le idee su questo, allora forse dobbiamo per prima cosa riflettere sul nostro spazio, sullo spazio in cui viviamo, sulla nostra situazione, sul nostro tempo, sul tempo in cui viviamo, non il tempo storico, vedremo il tempo che ci caratterizza per quello che noi siamo. Quindi vi propongo due brevissime riflessioni sullo spazio in cui viviamo, domandandoci se è uno spazio che ci serve per essere felici, e sul tempo che è il nostro proprio tempo, per capire come possiamo vivere felicemente la nostra situazione. Beh, spazio. Anche qui domande, domande su domande, la filosofia da domande, ma cerca anche di dare risposte. È uno spazio fatto per essere felici, quello in cui noi ci troviamo. Non dico qui a Padova, non dico in queste belle città nostre in cui c'è un orientamento urbanistico, c'è un orientamento dello spazio, sappiamo più o meno secondo un determinato ordine come è costruito il luogo in cui noi ci troviamo a essere e a vivere. Ma in tanti falsi luoghi, adesso non voglio continuare a citare una immagine che lo stesso suo autore ha in qualche modo disconosciuto, mi riferisco all'idea del non luogo elaborata dal sociologo e filosofo Marc Auger. Ma insomma, perché non siamo felici nei luoghi in cui ci troviamo molto spesso a vivere? Perché, certo, perché vi sono ingiustizie che ci colpiscono, perché vi sono luoghi in cui viviamo in cui le pari opportunità per tutti non sono affatto garantite, perché ci sono tanti spazi, molto spesso gli spazi in cui viviamo, che troppo spesso sono inadatti per un vivere felice, inadatti a un vivere felice. Perché ciò accade? Perché forse, ecco, i contesti in cui viviamo stabiliscono e fissano determinate diseguaglianze, creano filtri alla nostra libera espressione, creano impedimenti per il raggiungimento di ciò a cui aspiriamo, appunto magari il nostro essere felici. Ricordiamo quello che è scritto all'inizio della Costituzione degli Stati Uniti d'America: gli esseri umani hanno il diritto alla felicità. E quindi noi, in qualche modo, ognuno di noi oggi considera questo diritto, rivendica questo diritto indipendentemente da quello che è il diritto altrui, alla felicità, guarda caso. Ognuno si differenzia dagli altri per il suo proprio diritto alla felicità. Questo nello spazio in cui noi ci troviamo quotidianamente a vivere. Il risultato è una polverizzazione dei diritti, una polverizzazione delle differenze, una polverizzazione dei gusti, una polverizzazione delle esigenze, dei bisogni, quei bisogni che sono propri di ciascuno di noi per essere felice. Altro che la felicità come relazione a cui faceva riferimento prima Borgna. Altro che la felicità come pagamento del benessere proprio attraverso e mediante il benessere altrui e viceversa. Il diritto alla felicità nel nostro spazio è quel diritto che provoca un moltiplicarsi, un polverizzarsi delle differenze, è una rivendicazione delle differenze. Perdonatemi, ma sapete che i filosofi sono dei grandi rompiscatole, vanno sempre più a fondo, non si accontentano mai di niente. Anche questo risultato in realtà non è un risultato. È proprio vero che viviamo nell'età della rivendicazione dei diritti propri di ciascuno di noi e delle differenze che sono proprie di ciascuno di noi? Ma non accade invece oggi che proprio queste differenze sono richieste da tutti, sono rivendicate da tutti e quindi sono differenze omologate, sono differenze indifferenziate perché sono a tutti che le rivendicano queste differenze. E quindi che io voglia il dolce, che Marzia voglia il salato, ma poi alla fine, bene o male, ci ritroviamo tutti sullo stesso piano in quanto a gusti. I tuoi gusti sono uguali ai miei gusti. Che differenza c'è? Questo è il punto. Viviamo nell'epoca dell'indifferenza. E in una situazione di indifferenza, in uno spazio indifferente, in cui non ci sono differenze, cioè in cui non è possibile trovare distinzioni tra le cose, non è possibile orientarsi. Se mi trovo in un deserto, mi perdo. Se mi trovo in mezzo al mare, mi perdo. Se mi trovo in una situazione che è così, ad esempio, realizzata in un'immagine della Bibbia, Genesi 1, No, Nicola, è l'indifferenziato, l'indistinto, lo spirito di Dio che aleggiava sopra le acque, dove appunto le acque di notte sono il simbolo della indifferenza. Immaginatevi una barchetta in mezzo al mare di notte senza alcun punto, alcuna luce che possa orientare. Ecco, noi ci troviamo in questa situazione oggi, ecco perché non siamo felici. Perché anche le differenze sono trasformate in qualcosa di omologato. Perché viviamo in una situazione di piena e totale indifferenza. E allora da qui noi troviamo un'indicazione molto precisa. Che cosa vuole la felicità? Di che cosa ha bisogno? Ha bisogno di orientamento, ha bisogno di differenze, ha bisogno di gerarchie, ha bisogno che ci possa essere per l'azione, il vivere, il pensare dell'essere umano di un senso. Senso è appunto qualcosa che offre orientamento e che mi permette di muovermi nel mondo. In una situazione di spazio indifferenziata, quale quella che molto spesso noi abbiamo di fronte a noi e in cui viviamo, se non c'è orientamento, se tutto è indifferente, non c'è senso e siamo infelici. Ma vi ho promesso anche una riflessione sul tempo specifico della felicità, ma non il tempo dell'orologio, ah sì, sono già le 10:02, resistete altri 10 minuti? Bene, sono pazientissimi, si vede, perché sì, vi faccio perdere tempo, perché mentre io sto parlando il tempo scorre. Ma non scorre il tempo dell'orologio, sono già le 10:04, 4 minuti e un secondo, 2 secondi, 3 secondi. Scorre il tempo che noi siamo, scorre la nostra vita. In una parola, noi invecchiamo. Tutti, anche voi 3 ragazzi, cosa credete? Perché siete belli giovani che non invecchiate anche voi? Invecchiamo tutti, cosa dicevano gli antichi? L'uomo appena nato è già abbastanza vecchio per morire. E non vi sembra questa che sia la condizione fondamentale per individuare il cuneo, la punta di lancia che percuote, che trafigge il nostro costato, che è la infelicità? Il fatto di invecchiare non è la condanna fondamentale che rende infelice l'essere umano. Lo chiedo a voi. Non vi sembra che sia questo? Ah, che bello se l'essere umano fosse eterno? Boh, non lo so. È eternamente giovane, semmai. Ricordate il mito di Peleo e Teti? No, quel mitico re dell'antica Grecia che si sposò una giovanissima ninfa e chiese alla Giove, insomma, visto che la ninfa è immortale, è carina, eccetera, rendimi immortale anche il marito. E peccato che si dimenticarono di chiedergli anche l'eterna giovinezza. E questo sì era eterno, ma invecchiava indefinitamente e alla fine chiese di morire perché non si poteva andare avanti così. Non si poteva andare avanti ulteriormente. E dobbiamo imparare a invecchiare, perché l'invecchiare è il modo in cui il tempo si incarna in noi, nella nostra vita. Ma cosa vuol dire invecchiare? Perché anche qui, attenzione, rischiamo di pensare, dato che è qualcosa che riguarda tutti, rischiamo di pensare questa esperienza proprio come se fosse un decadimento, una caduta. Ah certo, se mi aveste visto 20 anni fa con la mia chioma fluente, a questo punto, vedendomi adesso, qualche cosa è caduto, e anche molto. Ma il punto non è questo. Invecchiare non significa caduta, decadimento, necessariamente corsa verso la disgregazione. Rovinio. Invecchiando io maturo, io comprendo meglio le cose, io divento una persona esperta. E se invecchiare è il carattere della mia vita, il modo in cui io vivo il mio tempo, io devo fare i conti con il mio invecchiare, con le caratteristiche del mio essere temporale, con il fatto che io sono finito, con il fatto che prima o poi morirò, proprio per trovare qui possibilità, condizioni di felicità. In realtà che cosa è successo sempre, dall'antica Grecia fino a tanti filosofi del Settecento, dell'Ottocento, pensa a Rousseau, ad esempio, che alla felicità ha dedicato pagine veramente importanti, che però la felicità era posta al di fuori della nostra vita. Immagino che molti di voi abbiano ascoltato l'ultimo di questi incontri, Salvatore Natoli, un caro amico Salvatore, che appunto ha scritto un libro intitolato La felicità della nostra vita, di questa vita. Ma è di questo, è su questo che noi dobbiamo contare, perché l'idea che essere felici vale in un'altra dimensione che è diversa rispetto a quella in cui noi ci troviamo a vivere, questa è una condizione che butta via esattamente quello che noi siamo, esseri temporali, esseri che vivono il loro tempo, esseri che maturano il loro tempo, esseri che sono carne, non corpo, carne. La carne è la passibilità, la passività, la passione che ci caratterizza. Il corpo è qualcosa di manipolabile, fatto di pezzi di ricambio. Allora, se le cose stanno così, ecco cosa può dare la filosofia. Può permettere di fare tre esercizi almeno che consentono di raggiungere una dimensione in cui la felicità può essere possibile. Sto parlando di vita, non di psiche, quindi sono un po' fuori tema rispetto al tema di questa serata, ma vita è qualcosa di più ampio della pura nostra psiche, perché vita è appunto psiche e carne, temporalità, dinamicità di quello che siamo, non semplicemente come decadimento, ma come acquisizione, come decadimento e acquisizione assieme. Allora, quello che possiamo fare è cercare di fare i conti con questa situazione, in tre esercizi. Primo esercizio, appunto, noi non siamo delle cose, noi non siamo degli oggetti, noi non siamo delle realtà fisse. Viviamo dinamicamente. E questa dinamica però non è né progresso né regresso, né declino né acquisizione. Noi viviamo cercando inutilmente di fissare il nostro tempo, di bloccare l'attimo perché è così bello. Questo non ci è dato. Semmai lo stato della felicità è esattamente il cammino, la dinamica della nostra vita. È strano, ma lo si capisce. Non l'attimo fuggente, ma la situazione di dinamica in cui noi ci muoviamo, viviamo, invecchiamo, miglioriamo o peggioriamo, ma in ogni caso siamo verbalmente, siamo quello che siamo. Provare a fissare un momento, anche un momento felice, non funziona. È come cercare di svuotare l'oceano con un cucchiaio. L'attimo fuggente è ciò che Platone, in un apax legomenon, in una parola che viene usata solo una volta da lui nel dialogo col Parmenide, chiamava exaifnes. Exaifnes, ciò che viene dall'improvviso e fugge via. Sì, la felicità può anche essere questo, come emozione, ma cosa ce ne facciamo? E invece quello che noi dobbiamo apprezzare è proprio la nostra dinamicità, il nostro scorrere, lo scorrere della nostra vita, la dinamica incarnata che la nostra carne è. Quindi non contrapporci a questa dinamica, ma assecondarla. Primo esercizio, ce ne sono tre. Secondo esercizio. Vivere felici, assecondando la dinamicità della nostra vita, non significa consumarla questa vita. Noi non siamo cose che si usano, le cose si possono consumare. Le cose passano di moda, gli esseri umani invecchiano. Guardate che c'è una differenza tra l'invecchiare come verbo e le cose che sono vecchie, quindi sono ormai fissate, sono passate di moda, possono essere buttate via, magari perché servono ancora, ma non rientrano più in determinati contesti. Le cose sono vecchie e noi invecchiamo. Un'automobile nuova, ad esempio, è giudicata vecchia se c'è un altro modello da cui nel frattempo è stata sostituita. In questo caso la felicità è l'acquisizione del nuovo, o dell'apparentemente tale. Bene o male non ci sono state più invenzioni fondamentali riguardanti le automobili dagli anni 20 fino ai giorni nostri. Ci sono stati miglioramenti, ma non cambi completamente di prospettiva, innovazioni vere. Quello che dobbiamo fare invece è, comprendere che non si usa la nostra vita e non si usa neppure la vita degli altri, la si fruisce. Perché questi due termini? Mi riferisco a Sant'Agostino, che nelle Confessioni appunto distingue il verbo uti, usare, dal verbo frui, fruire. C'è una fruizio dei e una utilizzazione delle cose. Dio non si usa, certamente. Dio si fruisce, cioè, ecco il punto. Ci si apre all'altro, ci si apre all'alterità, la si assapora, consapevoli che questa apertura è necessaria, che non necessariamente però questa apertura corrisponderà a qualcosa che noi siamo in grado veramente di possedere. E neppure che ci potrà capitare qualche cosa che risponde pienamente alle nostre aspettative. Quando avviene la felicità? Quando accade la meraviglia. E la meraviglia è qualche cosa che non può essere programmato, che non può essere anticipato, che non può essere controllato, rispetto a cui dobbiamo appunto aprirci. Dobbiamo essere disponibili a fare esperienza, experiri, partire da, andare verso, verso cosa? Verso qualcosa che potremo incontrare, un'altra dinamica che incontra la nostra, altre dinamiche che incontrano la nostra. L'amore è un esempio di luogo e di tempo di realizzazione di questo incontro e di realizzazione di questa felicità. Terzo e ultimo esercizio. Se noi siamo questo, se noi siamo esseri che invecchiano, cioè che vivono la loro dinamica, che vivono la loro vita dinamicamente, se siamo esseri che possono vivere questa vita però aprendosi ad altro e in tal modo rendendosi disponibili a quella felicità grande o piccola che può accadere a ciascuno di noi, allora siamo anche esseri che riflettono, siamo anche esseri che eticamente possiamo scegliere questa possibilità. Possiamo scegliere, cioè, come diceva Pindaro, di essere, di diventare quello che siamo. Possiamo scegliere, volere, quello che magari già siamo, ma che non siamo ancora pienamente, ma che non siamo ancora totalmente, che non riusciamo magari a controllare, ma che possiamo diventare grazie alle circostanze, interagendo con gli altri, interagendo anche con la realtà che ci circonda, interagendo anche con noi stessi. Da ciò la conclusione e poi un piccolo riassunto finale. La conclusione è che non si è felici da soli, mai. Perché? Perché la felicità, se è davvero questa messa in opera di una serie di occasioni, di opportunità che capitano nella nostra dinamica, nella nostra vita, nel nostro invecchiare, nella nostra apertura ad altri, questi possibili incontri, queste esperienze che noi siamo in grado di fruire bene, se la felicità è tutto questo, questo noi non siamo in grado di darcelo. L'illusione, ma è solo un'illusione perché abbiamo visto all'inizio, se cerchiamo di prenderlo sfugge, l'illusione è che noi siamo in grado di programmare il nostro essere felici, peggio, che noi siamo in grado di programmare l'essere felici di altri, i nostri figli ad esempio. Risultato? Disastro. Dobbiamo renderci conto, dobbiamo assumere sopra di noi anzitutto questa scelta, la scelta per la relazione, la scelta per questa dimensione, questa consapevolezza che solo nella rete in cui noi ci troviamo e di cui siamo nodi, se vogliamo usare ancora questa metafora, è possibile per noi essere felici. Anche magari tagliando qualche nodo ogni tanto, anche magari tagliando qualche relazione per poterci concentrare su quelle che contano per davvero, ma in ogni caso sempre non si è mai felici da soli perché non siamo noi in grado di darci la felicità e tantomeno di darla agli altri. Concludo schematicamente. Riepilogo ci vuole, no? Così ce lo mettiamo bene in testa, ce lo ricordiamo e poi quando usciamo tutti quanti applichiamo queste brevi ricette filosofiche. Primo, la felicità non è una emozione che possa in qualche modo sopravvenire, possa riguardare semplicemente la nostra psiche, eccetera. È qualcosa che concerne la nostra vita, il nostro modo di essere, che concerne noi stessi integralmente, carne e sangue, pensiero e azione. Io ho scritto un libro che si chiama Teor Etica, teoria, pensiero, etica, azione, insieme. Ma chi siamo noi? Siamo esseri che invecchiano, siamo esseri dinamici, possiamo divenire ciò che siamo, lo possiamo essere e possiamo realizzarci proprio in quanto ci apriamo a relazioni, solo perché siamo esseri relazionali. E siamo esseri che possiamo scegliere di implementare, di essere sempre meglio, di essere sempre più consapevolmente esseri in relazione. Siamo esseri che possono scegliere, proprio in quanto dinamici, le loro relazioni. Siamo esseri etici. Questo è il punto chiave. Siamo esseri, cioè, che possono scegliere ciò che sono, che possono diventare sempre di più ciò che già sono. E quindi anche scegliere la strada giusta per essere felici, evitando le strade che invece giuste non sono. Una strada rischiosa, certamente, perché la felicità non dipende del tutto da noi. Ma se dipendesse da noi non sarebbe felicità, e quindi ben venga la meraviglia, la sorpresa, la relazione con altro, tutto ciò di cui possiamo fruire, tutto ciò che dà davvero senso alla nostra vita. Grazie. È piuttosto complesso da seguire questo excursus perché c'è poca volontà a questo punto, no? Cioè possiamo divenire, ma appartiene al posso più che al voglio di venire. In questo sento uno spostamento, la parola possiamo sia sostituita a ciò che vogliamo, quindi attiene proprio il divenire ciò che siamo, possiamo ciò che siamo. Questo non è così comune incontrare queste due parole assieme, perché tendenzialmente vogliamo essere, vogliamo divenire, il voglio che va davanti a questa frase. Quindi la trovo forte, possiamo, l'ho sentita poche volte. E scegliere ciò che siamo, e anche questa era una riflessione che nei discorsi che stavamo facendo anche con Nicola relativamente alla felicità, ci stavamo interrogando se si può essere felici quella volta che troviamo noi stessi, cioè dopo aver tolta tutta la zavorra che ci sta intorno, non è qualcosa che dobbiamo cercare o dobbiamo inserire, probabilmente è un dono col quale noi siamo già nati, con questo dono della felicità, e quindi ecco, possiamo tirarlo fuori, individuarci e essere ciò che siamo. E questo è il dono della felicità, cioè accorgerci che siamo invece di volere dell'altro. Lei può prendere da questa mia piccola riflessione questo piccolo spostamento che poi è grande nella vita, che ci porta da ciò che possiamo, che è molto di più in genere di quello che vogliamo. Perché il vogliamo può seguire la moda, le influenze, qualcuno che ci sta accanto, qualcuno che ci osteggia, qualcuno che ci dice devi essere. Abbiamo insegnanti magari tutta la vita e noi evitiamo di essere ciò che siamo. Questo è fuorviante, non solo non ci rende felici, ma non saremo mai noi stessi. È uno spogliare il sé che è dentro di noi. Quindi dico, portare questo accento su quando la buona volontà può essere degenerativa. Visto che non abbiamo il professor Eugenio Borgna, col quale magari potevamo fare un discorso sull'inconscio, su questi abissi, che quando lui pronuncia la parola abisso io mi sento proprio su questo strapiombo dell'Everest. Prego, poi intanto preparate le domande, perché daremo voce alle vostre domande. No, volentieri reagisco a quello che lei ha detto, perché potere è più importante e ulteriore rispetto al volere, perché il potere sa che per la sua realizzazione non basta semplicemente volere. Il potere per realizzarsi ha bisogno di qualche cosa che non è il nostro potere controllare. Voglio spiegarmi meglio con una serie di esempi. Nella storia del pensiero filosofico il tema della volontà emerge con forza nell'età moderna. Nell'età moderna, Cartesio prima, Pascal poi, l'essere umano è pensato nei termini ed è visto nei termini della volontà. Io prima voglio e poi penso quello che intendo fare. Questo sulla base di un'idea di potenza di realizzazione. Questa potenza di realizzazione oggi, nel mondo in cui noi viviamo, è incarnata dalla tecnica, dalle tecnologie, cioè da qualche cosa che sembrerebbe enormemente ampliare il nostro potere, non solo le nostre possibilità, ma il nostro potere. Sembrerebbe, perché che cosa accade? Qual è la nostra esperienza quotidiana? Prendiamo un telefono cellulare, cambiamolo, prendiamo, adesso siamo registrati, quindi non posso fare pubblicità e quindi non posso dire la marca, ma sapete tutti a quello che sto pensando, l'ultimissima marca appena lanciata sul mercato di un famoso smartphone. Bene, cos'è l'elemento tecnico-tecnologico che si adatta alle mie esigenze, alla mia volontà, o sono io che mi devo adattare allo strumento tecnologico? Quanto tempo ci metto io per entrare nel nuovo dispositivo, comprenderne i meccanismi, eccetera? E sono io che mi trovo potenziato nella mia volontà grazie a questo strumento? O mi trovo invece depotenziato proprio perché delego tante cose che sono mie proprio ad uno strumento tecnologico? Cosa voglio dire con questo esempio? Voglio dire che se è vero che nella storia del pensiero dell'età moderna, a partire dall'età moderna fino a oggi, si è celebrata il trionfo della volontà, fino a giungere alla volontà di potenza di Nietzsche, che è il punto di massima celebrazione della volontà che vuole se stessa e che si autoafferma, con i risultati che abbiamo visto nel Novecento, con la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Oggi abbiamo visto, oggi sperimentiamo nella nostra esperienza di vita quotidiana, che in realtà questa volontà, lungi dal potenziare quello che noi siamo, ci rende sempre più, non dico impotenti, ma dipendenti da tutta una serie di altre azioni che non siamo noi a poter controllare. Quanto più sembra che noi siamo in grado di controllare attraverso gli strumenti tecnologici e volendo ottenere determinati risultati attraverso questi strumenti, quanto più sembra che siamo in grado di controllare il mondo, tanto meno in realtà siamo in grado di controllarne le conseguenze, di prevederne le conseguenze. Questo è ciò che accade, ecco perché il concetto di volontà non è un buon concetto oggi da utilizzare. Ecco perché invece, proprio di fronte a situazioni che sembrano ossificate, fissate, definite una volta per tutte, il motto che viene, che è stato purtroppo anche abusato, ma che insomma torna sempre buono, è: altri mondi sono possibili. Più nell'ottica di Leibniz, ovviamente, che nell'ottica dei No Global. Ma riattiviamo le possibilità che sono in noi. Riattiviamolo, perché quando io facevo l'elogio dell'invecchiare non mi riferivo ad un destino necessario e neanche alla volontà di contrapporsi a qualche cosa che per certi aspetti rientra nel nostro essere, nella dinamica della nostra vita. Mi rifacevo invece alla possibilità di aprire nuovi scenari, altre opzioni, nuovi incontri, andare verso altri orizzonti, queste possibilità. E questo è il segreto anche della possibilità di essere felici, non della necessità, perché abbiamo detto, e lo ripeterò per l'ennesima volta, che se potessimo determinare la felicità, forse le droghe, forse, ma in realtà il prezzo da pagare è sempre più alto di quanto potremmo guadagnarne. La ringrazio e adesso la voce a voi. Prego. Ci sono domande? C'è un microfono itinerante? Sì, può venire un po' avanti per cortesia? Allora, può rialzare la sua mano che il Signore la individua. Ecco. Ne raccogliamo almeno tre, così poi rispondiamo. Allora, premetto che sono d'accordo con quanto sostenuto precedentemente dal professor Fabris, però diciamo su questa incapacità di raggiungere uno stato totale permanente di felicità, un po' come sostiene Leopardi. Tuttavia, non è proprio questa mancanza di felicità e quindi questa ricerca di felicità a spingere avanti lo sviluppo dell'uomo come persona, come individuo, un po' come sosteneva prima il professor Scuri nella metanoia, cioè non è questa ricerca della felicità a spingere l'uomo a modificarsi e a evolversi? un'altra mano prima al Signore. Una domanda, per favore. La felicità, ho sentito molto la parola emozione, emotività, eccetera, attiene prevalentemente alla affettività, cioè la timo psiche, o attiene prevalentemente alla razionalità, alla no psiche, o a un'armonia tra le due sfere della psiche, visto che parliamo di felicità e psiche. Grazie. C'è qualcun altro? Volentieri? Sì. Ma spesso quando si parla di felicità si intende per felicità qualcosa di supremo, come il fine supremo dell'esistenza, come un valore a cui tendiamo inevitabilmente e comunque. In verità spesso si subordina le proprie soddisfazioni personali per ottenere un qualche obiettivo. Quindi un sempre di nuovo tendere verso un telos, un fine, uno scopo, che va al di là del piacere come scarica pulsionale, libidica, è qualcosa che va al di là anche di una pianificazione ordinaria della felicità. Quindi sono pienamente d'accordo con lei, come alla felicità si debba subordinare, si debba scegliere una visione un po' più allargata, un po' più generale. E questa si può trovare soltanto sul bene, sulla parola bene. Grazie di queste domande, di queste sollecitazioni che servono a illuminare una serie di aspetti che necessariamente magari sono restati nell'ombra in quanto ho detto. Dunque, la felicità serve, la tensione, la tendenza, l'aspirazione alla felicità serve a migliorarsi. Sì, questo è molto americano, è vero, non è una critica questa, è assolutamente, però è la idea per cui, lasciando impregiudicato quello che vuol dire felicità, che può essere soddisfacimento di determinate esigenze o bisogni, oppure realizzazione piena di sé, oppure pieno e completo raggiungimento di determinati obiettivi, eccetera. Ecco, in tutto questo, in questa tensione, il singolo individuo va oltre e produce il progresso dell'intera umanità, no? Quindi questa tendenza del singolo individuo produce un progresso dell'intera umanità. Ci sono una cosa che mi piace e una cosa che non mi piace personalmente, e argomento che cosa voglio dire. L'idea che, appunto, quello che non mi piace è l'idea che la felicità sia legata ad una tensione individuale dell'individuo. Cioè è l'individuo che ha il suo obiettivo da raggiungere, che ha il suo bisogno da appagare, la sua esigenza da appagare, o che deve realizzarsi in un qualche modo, perfezionarsi per quello che è. E il suo vicino? Per quello diceva molto americano, è un approccio individualistico. Il suo vicino, chi se ne frega? Tanto addirittura da arrivare a quel paradosso che mi disse, parlando seriamente, un collega americano, i poveri per la strada li lasciamo lì anche morire di fame perché li rispettiamo proprio nella loro scelta individuale. Questo è quello che non mi va. Questo è quello che non mi va. Perché si parte da una idea falsata, limitata dell'essere umano come individuo, indiviso, isolato, ma non è vero, ma insomma non siamo così, appunto. Ed ecco perché la felicità deve mettere in gioco per forza anche altri. Quello che mi piace invece è quella cosa che accennava all'inizio. La felicità non è uno stato pieno, non è qualcosa che viene fissato una volta per tutte, ma qualcosa che si raggiunge, che si fa nel cammino, esattamente come la strada che si fa camminando. La felicità è questo, lo stato della felicità, al di là dell'emozione passeggera, è questo, la capacità che è proprio di ciascuno di noi di costruirsi il suo cammino, solo che non è un cammino inteso come un sentiero, punto e basta, ma è un cammino che si incrocia e che si intreccia con tanti altri cammini. Questo è il punto, se vogliamo usare una metafora. Ottima la domanda, affettività, ragione, equilibrio tra le due, che cosa caratterizza la felicità? Io ho parlato volutamente di pensiero, azione, carne, intendendo che appunto si tratta non semplicemente di qualche cosa di psichico, ma di qualche cosa di integrale, che è proprio dell'essere umano come tale, ragione e sentimenti insieme, ma non può essere soltanto sentimento perché sarebbe emozione, non può essere soltanto sentimento perché l'essere umano non vive soltanto del sentire, ma riflette sul suo sentire. Riflettere che cosa vuol dire? Vuol dire essere consapevole e poter vivere più pienamente quello che un essere umano sta sentendo. Lo stessa gioia, lo stesso dolore, l'essere umano lo vive in maniera molto più intensa o in maniera anche diversa a seconda di come sente questo sentire, cioè riflette e ragiona su questo sentire. E allora io utilizzerei un'altra parola fondamentale, coinvolgimento. Felicità è essere coinvolti in una situazione che mi prende, in qualche modo mi rapisce, che è una sorta di totalità che mi fa sentire parte di essa, in cui io sono io perché sento, perché rifletto su questa situazione che mi sta prendendo, però sono anche al di là di me, mi sento parte di qualche cosa che non dipende da me, ma di cui sto appunto fruendo. In parte l'esperienza dei grandi mistici, da questo punto di vista, è un'esperienza di felicità, di grande felicità. Perché, ecco, concludo con la sollecitazione dell'altro collega, felicità davvero è, potremmo dire, il superamento di ogni separazione, di ogni divisione, di ogni lacerazione. Male che cos'è? La lacerazione che ci può capitare, la mancanza di una relazione possibile che rimedia ad una determinata situazione. Ecco perché l'individuo isolato non mi piace, perché è separato, lacerato rispetto a tutti gli altri. E invece il bene, la felicità, la totalità si ha proprio superando questa situazione di divisione, di separazione, e quando tutto è collegato e quando noi ci sentiamo un elemento di questo tutto collegato, ecco, questa è una faccia della felicità. Possiamo fare altre domande? Ci sono altre domande, ne prendiamo altre tre, sono le 11:10, siamo nei tempi. C'è qualcun altro che ha qualche curiosità? Sì. Allora, ho molto apprezzato la proposta dei tre esercizi pratici per poterci aiutare ad essere felici. Non crede però che forse, ecco, io non ho sentito parlare di una parola in particolare, che è gratitudine. Io aggiungerei magari anche un quarto esercizio, che secondo me scaturisce dalla consapevolezza non di ciò che si ha, ma da ciò che si è, di ciò che si è. E quindi se io ho consapevolezza di ciò che sono e ringrazio per quello che sono, perché ho consapevolezza delle potenzialità che ho e di ciò che è stata la mia storia, questo può aiutarci ad essere felici. Può aiutarci ad essere felici con gli altri, perché riconosco anche la bellezza che c'è a fianco a me. E quindi ecco la felicità che non può essere vissuta da soli, ma va vissuta con gli altri. Ecco, non pensa che magari anche la gratitudine potrebbe essere un ulteriore esercizio? Grazie. Vedo qualche mano che si infila il cappotto, e allora io penso che sia una domanda. Ci sono domande? No. Una qui, c'è una signora, adesso le arriva perché era dalla parte opposta. La signora in seconda fila. Una curiosità. Cosa pensa di libero arbitrio, determinismo, fatto e fortuna, oppure di provvidenza, di salvezza o dell'idea che l'umanità si è data del bisogno di avere il Salvatore come essente e non come vivente, cioè perché noi come viventi siamo sempre destinati semmai a correre ma non a ottenere questa felicità come stato, come stato anche dinamico. Heidegger, essere lanciato eccetera, però non risolve il problema della salvezza, che è altro. Allora forse rispondiamo a queste due, poi chiudiamo. Se non ci sono altre, rispondiamo a queste due e poi ci salutiamo. Benissimo, allora gratitudine, sì, è una parola certamente chiave, che si ricollega alla consapevolezza che non tutto dipende da me, non tutto è creato o costituito da me. C'era uno scrittore, un grande scrittore tedesco, a cavallo tra 700 e 800, Johann Paul Friedrich Richter, più noto con lo pseudonimo di Jean Paul, che diceva: io non sono il padre e il creatore di me stesso. Perché se io fossi il padre e il creatore di me stesso, potrei anche essere il mio stesso sterminatore. Allora, se io non sono il padre e il creatore di me stesso, vuol dire che appunto sono un essere in relazione. E in quanto sono un essere in relazione, so bene che non tutto dipende da me. Il che vuol dire che sono anche responsabile di ciò di cui non sono direttamente responsabile, appunto di ciò che non dipende immediatamente da me, ma che pur tuttavia mi coinvolge. E dall'altra parte però, appunto perché so che non tutto dipende da me, so che tanto che mi capita è gratis. E nei confronti di questo, imprevisto, incontrollabile, una modalità di relazione è sicuramente la gratitudine. Libero arbitrio, provvidenza, insomma ce n'è effettivamente, e alle 11 di sera effettivamente una cosa del genere ammazzerebbe anche un bue. Ma però vede, il punto qual è? Si tratta di due estremi. L'estremo del, appunto, io sono padre e creatore di me stesso, da una parte, e dall'altra parte l'estremo, io sono determinato in ogni istante, in ogni momento della mia vita. L'esito di entrambi questi estremi però è sempre è identico, se ci pensa bene, perché nell'un caso io credo di poter controllare tutto e non riesco poi in realtà a controllare tutto. Nell'altro caso io ritengo che non c'è nulla da controllare perché sono controllato, ma appunto tutto quello che mi capita è qualcosa che è destino, è determinato ad accadere. E dunque nell'un caso sono io responsabilizzato al massimo di una costruzione di una felicità che mi sfugge, e nell'altro caso invece io sono condannato a vivere ogni momento, anche quello più infelice, come se fosse un momento buono, cosa che non è. Hai voglia a dire Dio lo vuole. La nostra carne si ribella in certi casi e suscita domande, come la domanda di Giobbe. Allora ecco, la felicità, almeno per il discorso che ho cercato di svolgere io, si colloca tra questi due estremi, lasciando spazio a quello che è ciò che noi possiamo essere e vogliamo essere nei limiti in cui ci rapportiamo ad altro, è una situazione in cui non riteniamo di essere onnipotenti, tali da poterci determinare in tutto e per tutto, anche nel nostro essere felici. Ecco cosa vuol dire, alla fine, divieni, cioè abbi il coraggio di essere ciò che già sei, ciò che sei determinato a essere, cioè un essere relazionale. Grazie. Allora ringrazio voi, ringrazio il professore Adriano Fabris accanto a me, ci spiace per Eugenio Borgna, voi siete stati pazientissimi, vi ricordo che lunedì avremo felicità e religione con il professor Silvano Petrosino, Gian Giorgio Pasqualotto. Naturalmente il film alle ore 17.45 Fuori dal mondo di Giuseppe Piccioni, commentato da Umberto Curi. Grazie a tutti e alla prossima lunedì. Buonasera.